Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. La saliva è un campione diagnostico ideale per seguire la ricerca del SARS-CoV-2, quanto emerge da una ricerca appena pubblicata, realizzata dall'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. In linea con noi la commentiamo con la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia dello Spallanzani. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Allora, il campione salivare è un'alternativa valida al tampone nasofaringeo, questo è quanto suggeriscono i dati della vostra indagine. Sì, in realtà finora il campione gold standard per la diagnosi era un campione delle secrezioni respiratorie raccolte col tampone. Poiché il virus si trova anche nella saliva, noi abbiamo utilizzato un sistema commerciale validato per questa tipologia di campione per vedere quanto la saliva rappresentasse bene la situazione infettiva e quindi quanto si potesse usare per identificare le persone che hanno il virus anche nel tampone, ma non solo nel tampone, nei pazienti gravi può essere spesso la diagnosi si fa su secrezioni profonde raccolte mediante il broncolavaggio. Ebbene, abbiamo visto che la saliva rappresenta benissimo anche la situazione del broncolavaggio, quindi essendo un campione molto semplice da raccogliere e abbiamo visto che riflette benissimo il virus anche in quantità e anche in durata di presenza, il campione standard che finora è stato sempre la secrezione respiratoria, a questo punto la saliva può entrare a pieno titolo tra i campioni elettivi per effettuare la diagnosi. Professoressa Capobianchi, qual è l'applicazione ideale di questo test? L'applicazione ideale di questo test è in tutte quelle situazioni in cui è difficile fare un prelievo o anche di tampone o di BAL. Questo per esempio nei bambini, certo. È molto semplice prelevare la saliva e soprattutto noi per esempio nel Lazio lo stiamo usando in un progetto pilota nel quale preleviamo la saliva ai bambini delle scuole e i campioni che risultano positivi a un test antigenico che si fa come screening in questi bambini, poi il test ha una quota di falsi positivi notevole, quindi va confermato con un test molecolare. Ebbene, finora non c'era a disposizione il test molecolare validato fatto sulla saliva, adesso che c'è noi lo stiamo applicando con ottimi risultati, vagliando e quindi dando la diagnosi definitiva ai bambini ai quali abbiamo fatto un pre-screening con un test salivare che ricerca gli antigeni del virus, quindi si fa più rapidamente ed è meno costoso del test classico molecolare. Professoressa, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Io vi rimando come ogni giorno alla pagina Facebook di Obiettivo Salute per i nostri video incontri. Oggi incontriamo Rosanna D'Antona, presidente di Europa Donna. Non mancate, vi aspetto. Parleremo dell'ultimo libro della dottoressa D'Antona che parla di un incontro con una malattia, il tumore della mammella, un incontro con un grande medico. Vi aspetto. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.